9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questa Santa Rosa da Lima che si festeggia oggi, ritorno al microfono dopo solo 5 puntate di assenza, ringraziando ancora una volta Gianfranco Fabi che ha fatto molto di meglio le veci la scorsa settimana. Di che cosa ci occupiamo al rientro? Di fronte alla riapertura oggi per alcuni milioni di lavoratori dipendenti delle fabbriche e del ritorno al lavoro, del calendario della politica e delle scadenze della politica. Questa ripresa dopo la frattura tra Berlusconi e Fini a luglio, questa sospensione che è rimasta sulle cronache ferragostane arroventandole più di quanto non facesse il clima, di come andasse inteso il seguito di questa legislatura. Sapete dei 5 punti del documento che il vertice PDL ha indicato come la strada senza alternativa per un patto di fine legislatura, è stato accolto dai parlamentari intorno all'onorevole Fini come acqua fresca, in buona sostanza, cioè come un ribadire impegni già assunti e sui quali non c'è un grande problema. Naturalmente però il problema c'è su uno di essi in concreto, su come verrà declinato. Stiamo parlando della giustizia, stiamo parlando non tanto delle riforme ordinamentali quanto naturalmente della disciplina del processo breve necessario al Premier e prioritario in vista della discussione che si terrà alla Corte Costituzionale entro fine anno sulla costituzionalità dello scudo istituzionale del Lodo Alfano, che metteva il Presidente del Consiglio insieme alle altre cariche istituzionali al riparo dai procedimenti in corso. Ergo, la stesura del disegno di legge sul processo breve sarà, come hanno rivelato in realtà le interviste, quelle più sapide, al di là del giudizio sulla scontatezza del documento sui 5 punti, con ogni probabilità l'argomento sul quale si ritenderanno di nuovo i muscoli, perché lo ricordo a tutti voi che siete in ascolto, è vero che in prima lettura il provvedimento è passato con il voto dei finiani, ma dei dubbi sono poi emersi intorno in particolare a una norma, quella transitoria di questo disegno di legge, che ricordo a tutti è volto a stabilire durate massime dei 3 gradi del procedimento: 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo, 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, ma nel regime transitorio un comma aggiunto alla prima lettura, e tra l'altro scritto da onorevole Valentino, quindi un ex componente di AN, fissa in 2 anni dall'incardinamento del procedimento nel regime transitorio di primo grado la prescrizione, la decadenza, voglio dire, una volta approvata la legge, dei procedimenti di primo grado in corso, sempre che siano stati incardinati prima del maggio 2006. È ovvio che ci si riferisce al processo per il caso Mills, che potrebbe andare a decisione ove cadesse a fine anno lo scudo costituzionale del Lodo Alfano entro pochissimi mesi, entro poche settimane, entro febbraio, marzo, e quindi sarebbe per il Premier una brutta zeppa, perché significherebbe naturalmente tornare all'incandescenza delle accuse su corruzione in atti giudiziari. Ecco, al di là di tutto tentiamo di fare, sia o non sia questo il punto sul quale le cose si arroventeranno, tentiamo di fare semplicemente un punto chiedendo ai rappresentanti delle diverse componenti del centrodestra, quindi alla Lega, al PDL e ai gruppi parlamentari di Futuro e Libertà, di farci capire se per milioni di italiani al ritorno al posto di lavoro, di fronte a un mondo che quest'estate lo si è capito ancora più di prima, sta crescendo ma con un ritmo, un passo e una gerarchia diversa da quella di prima. L'Asia continua a tirare, ma l'America frena molto, la Germania invece tira tantissimo, un po' come la Cina dell'Europa, altri paesi europei si trovano alle prese invece con un ridimensionamento anch'essi, come gli Stati Uniti, della crescita. E per l'Italia la questione di fondo, non solo perché siamo a radio di Confindustria, ma perché io ne sono personalmente convinto, è che occorrerebbe, una volta tenuti al riparo i conti pubblici dal ballo dell'eurodebito, e questo è sicuramente un merito del nostro governo, però occorrerebbero nuove misure al di là della finanza pubblica per concentrarsi sulla produttività vi richiamo non secondaria notizia del fatto che in Germania, appunto perché stanno crescendo a un ritmo superiore al 3% quest'anno, gli imprenditori hanno chiesto ai sindacati di tornare prima dalle vacanze per lavorare tutti di più. Ecco, fa un po' impressione che a distanza di pochi chilometri l'agenda di un paese dove pure il governo ha perso la maggioranza al Bundesrat, alla Camera delle Regioni, l'ha persa con le elezioni di maggio, quelle in Renania-Nordvestfalia, eppure pur avendo perso la maggioranza al governo Merkel al Bundesrat, nessuno ha certo pensato ad elezioni anticipate, a crisi di governo, a insulti sanguinosi, a separazioni nella maggioranza. È un governo che pure non è ai vertici della popolarità, tanto per essere chiari, anzi è più giù rispetto al governo italiano nei sondaggi di popolarità, però va avanti ed è un paese che lavora come una locomotiva sul binario. In Italia la domanda che noi facciamo ai nostri ospiti è se alla ripresa gli italiani possono aspettarsi di dover lavorare concentrati sulle loro esigenze, oppure, naturalmente con pieno rispetto per la legittima dialettica della politica, quello che ci attende è, come dice oggi in una intervista a Repubblica il presidente della Regione Veneto, Zaia, leghista, questa è la cronaca di una morte annunciata. Il leader, uno dei leader della Lega, dice: andare al voto è inevitabile, il PDL pagherà gli scandali. Ma sentiamo come la pensano i nostri interlocutori, ve li presento e direttamente sentiamo da loro che attenderci. Abbiamo collegati con noi questa mattina Benedetto Della Vedova, che è il vice capogruppo della componente Futura Libertà alla Camera. Buongiorno Della Vedova. Buongiorno. Abbiamo Maurizio Gasparri, capogruppo PDL al Senato. Buongiorno Gasparri. Buongiorno. E Sandro Mazzatorta, il vicepresidente del gruppo della Lega Nord, sempre al Senato. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Allora, comincerei da Della Vedova, è pressoché inevitabile. Siamo appunto, Della Vedova, alla cronaca di una morte annunciata, cioè si tratta di far passare qualche mese per indebolire ulteriormente Berlusconi dal punto di vista dell'onorevole Fini, oppure c'è qualche speranza concreta che insomma si rimetta in carreggiata, l'accordo tenga, si superi anche lo scoglio del processo ragionevolmente lungo, visto che non bisogna dire più breve? Ma guardi, io credo che potrà andare avanti bene, regalando agli italiani qualche semestre di riforme sulle cose che contano davvero. Lei ha esordito ricordando le difficoltà in termini di crescita, cioè di occupazione, di reddito, di ricchezza che l'Italia sta incontrando rispetto non alla Cina ma rispetto alla Germania, e occupandoci dei temi importanti che sono anche nel programma di governo, finanza pubblica, per riuscissimo a ripristinare alcuni dati di realtà che secondo me nelle ultime giornate sono venuti telegraficamente. I gruppi di Futura Libertà si formano perché l'ufficio di presidenza del PDL, legittimamente, secondo me facendo un errore clamoroso, vota un documento di espulsione politica di Fini e dei finiani dal PDL stesso, documento che resterà negli annali. Uno dei capi di imputazione di Fini era di aver preso posizione sulla legge elettorale, per capirci. Questa espulsione determina come reazione la costituzione di gruppi autonomi, di coloro che volevano fare, penso a me, una battaglia dentro il PDL sulla forma di partito, sulle prospettive politiche, io dico più liberali europee, altri la pensavano in un altro modo. Ma noi quella lotta volevamo fare incardinata nel PDL. È stato detto esplicitamente, con un documento poco liberale secondo me, che non era possibile. Abbiamo formato dei gruppi parlamentari, siamo tutte persone che erano in maggioranza fino a un giorno prima, che ne so, al Senato uno dei più finiani è il senatore Valditara, che alla fine di luglio chiudeva in modo eccellente il suo ruolo di relatore sulla riforma dell'università. Abbiamo sempre votato con PDL e non c'è ragione, questo racconto che viene fatto, non c'è ragione per cui non continueremo a farlo. Certo, discutendo come si faceva prima, ma è come spero nessuno voglia escludere dalla prospettiva di un grande partito. Sulle intercettazioni è stata una discussione anche molto accesa all'interno del PDL, secondo me alla Camera si è arrivati a un testo migliore di quello che era uscito dal Senato, che non massimizza come quello l'ostilità. Lo voteremo, secondo me sarà meglio per tutto il centrodestra. Sul processo breve, secondo me, può succedere esattamente la stessa cosa. Anzi, quello che si è verificato sul caso Caliendo, cioè la definizione di un'area che abbiamo chiamato di responsabilità istituzionale, che ha rotto gli steccati invalicabili tra maggioranza e opposizione su un tema come la giustizia, potrebbe, ad esempio, riverberarsi positivamente con una discussione perfino sul processo breve che magari porti, come sarebbe doveroso, essendo un tema che riguarderà l'Italia dei prossimi 20 anni, non dei prossimi 2 mesi, magari una maggioranza più ampia. Però concentriamoci sulle grandi questioni del Paese, le risposte che siamo chiamati a dare, federalismo che risponda a un disegno nazionale, riusciamo o no a diminuire le tasse entro la fine della legislatura, come accompagniamo la ripresa economica, discutiamo di questo se vogliamo andare avanti. E noi a questo punto, come soggetto aggiunto al centrodestra, come gruppo parlamentare, sapendo che siamo i più piccolini, che siamo di centrodestra, che saremo leali a questo governo fino all'ultimo minuto utile, vogliamo partecipare. Poi se qualcuno vuole insistere nella strategia della, cioè di un presidente del Consiglio, se mai fosse vero questo, che ha come obiettivo, sulla base di criteri psicologici, logoramento, eccetera, eccetera, la strategia dell'autoribaltone, cioè di come riuscire a perdere la fiducia del Parlamento, quello che succederà dopo nessuno lo può prevedere. Ok, aspetta, vederla in positivo. Dunque, lei dice che bisogna vederla in positivo. Leggendo naturalmente alcuni giornali, anche oggi faccio riferimento, per esempio, chi avesse per le mani Il Messaggero, pagina 3, c'è un articolo di Claudio Sardo che spiega come un sottile filo per comprendere, diciamo, le opinioni che leggono positivamente il futuro, non voglio attribuire l'onore della vedova, ma dico che ci sono alcuni malevoli secondo i quali la strategia è quella di perdere tempo, perché naturalmente bisogna arrivare a un punto in cui, nella caduta dei sondaggi, il PDL vada a un punto in cui al Senato, per come funziona oggi la legge elettorale, poi non scatti il premio elettorale. C'è un articolo di Claudio Sardo, pagina 3 del Messaggero di oggi, ne trovate uno naturalmente, ma dico naturalmente perché la testata è diversa, è più orientata, molto più cattivo, ma che sviluppa questa stessa suggestione da parte di Ilvo Diamanti su Repubblica di oggi. Chiedo invece al senatore Gasparri, lei oggi fa un'intervista alla Stampa in cui in buona sostanza dice due cose: dice che Fini picchia duro con Berlusconi quando lo vede in crisi, quanto più lo vede in difficoltà tanto più lo picchia duro, e poi dice sì, crederci sì, però insomma non possiamo neanche dimenticare che la realtà è che l'onorevole Fini voleva già far nascere i suoi gruppi all'indomani delle regionali, e poi se non fosse stato che poi Renata Polverini nel Lazio e Roberto Cotta nel Piemonte sono diventati governatori, e forse l'onorevole Fini non se lo aspettava, ha soprasseduto, ma nella realtà il suo è un progetto già chiaro da tempo, che, come dire, insomma, crederci sì, ma come si fa a crederci? Sbaglio, senatore Gasparri? Conosco dall'interno questa vicenda fin dall'inizio per averla vissuta in posizioni non secondarie. Purtroppo il rapporto tra Fini e Berlusconi è sempre stato un rapporto difficile. Nei momenti, appunto, come ho detto in questa intervista, ma l'avevo anche raccontato in altre occasioni, di apparente debolezza o di maggiore difficoltà di Berlusconi, questo rapporto peggiora. Quando, a vigilia per esempio dell'elezione del 2008, che Fini ci diceva tutti i giorni non ci sarebbero mai state, Prodi non sarebbe caduto, quando invece poi Berlusconi anche con l'occasione dimostrò di aver visto giusto, ci furono le elezioni, Fini, senza nemmeno fare una riunione, decise di fare la lista unitaria, cosa che io condividevo, quindi quando ce lo disse, accordo fatto, ne fui contento, ma non ci fu neanche una discussione, non dico di tutto il Partito Democratico, ma nemmeno di 5 persone, lo apprendemmo a stretta di mano avvenuta, ripeto, chi era d'accordo come me con piacere, chi non lo era ne dovette prendere comunque atto. Quindi c'è una difficoltà storica di rapporti, allora io credo che noi non possiamo fare una esegesi dei rapporti, dei caratteri, degli umori, dobbiamo andare alle cose, perché abbiamo la responsabilità di governare il paese, il PDL è il primo partito italiano, ha centinaia di parlamentari, ha ben governato il paese, la maggioranza di PDL e Lega ha fatto 8 ottime cose, tant'è che poi in questi due anni che sono seguite le elezioni del 2008 ha vinto comunali, provinciali, regionali, e anche nelle regionali, quindi prevedeva delle sconfitte, aveva convocato una riunione in cui avrebbe annunciato questa storia dei gruppi autonomi che già da mesi gli frullavano la testa. Poi nella giornata di quel lunedì il risultato del Piemonte e del Lazio da negativo divenne positivo, quella riunione fu annullata, non fu mai più fatta, il proposito venne accantonato, ma come dicevo prima ritornava ciclicamente fino ad essere poi annunciato ad alcuni, e quindi l'attenzione non è che nata all'improvviso, il documento che fu fatto a luglio può piacere o non piacere, ma fotografa un dato storico. Detto questo, poiché noi dobbiamo guardare ai problemi e non agli umori, abbiamo proposto con questo documento, che trasformeremo in una mozione parlamentare, dei punti molto chiari sul federalismo, sul fisco, sulla giustizia, sul mezzogiorno, sulla sicurezza e il contrasto all'immigrazione, che porteremo in Parlamento. È ovvio che lì ci può essere il rischio di una tattica dilatoria. Ci ti voto il documento, tanto dice cose buone. Alcuni hanno detto, appena fu votato il documento, la montagna ha partorito il topolino. Poi il giorno dopo il topolino invece era indigeribile, non andava bene, e allora è ricominciato lo stirifilo di dichiarazioni. Ecco, noi a questo giochino non ci stiamo. O uno è d'accordo o uno non è d'accordo. Essendo stato eletto con una maggioranza, con una lista, con un programma, si assume questa responsabilità, ed è nota la nostra posizione, che non è solo nostra. Anche gruppi di opposizione la pensano così, anche autorevoli commentatori e costituzionalisti. Se la maggioranza scelta dagli elettori non dovesse esserci più, sono gli elettori che decidono chi deve governare questo paese. Io però sono ottimista, sono convinto che non solo la mozione sarà approvata da un'ampia maggioranza, ma che le leggi, molte delle quali sono state già votate in un ramo del Parlamento, saranno approvate. Oltre alle politiche che riguardano il fisco, ad attuare compatibilmente l'andamento della situazione economica, non dipende solo da noi, ma questo lo sanno tutti, federalismo e provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale, il mezzogiorno, l'uso immediato, utile dei fondi FAS e di altre risorse già esistenti, la questione della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina, proseguendo la forte azione anticrimine e di respingimenti alle frontiere e sulle nostre coste, che ha dato ottimi frutti. Per quanto riguarda la giustizia, insieme alla riforma del processo penale, insieme alla separazione delle carriere, temi noti e arcinoti, voglio ricordare che nel programma elettorale c'è scritto che bisogna attuare i principi costituzionali sul giusto processo. Anni fa, quasi alla unanimità, il Parlamento modificò la Costituzione e disse nella Costituzione che il processo deve essere giusto. Perché un processo sia giusto? Deve avere una certezza di tempi. E la legge che abbiamo votato al Senato, e che il futuro capogruppo di Futura Libertà al Senato Viespoli, in un'intervista ieri sull'Avvenire, ha detto essere una buona legge, che lui ha votato insieme ad altri senatori, e che è un punto di sintesi per la Camera, così ha detto Viespoli, non Gasparri, debba essere approvata alla Camera. È una legge che prevede per i reati minori, tra indagini e vari gradi di giudizio, 10 anni di tempo per arrivare a una decisione finale, pensi lei se è breve, e per i reati più gravi si parla da 15-18 anni, che a me sembra un'enormità, forse è troppo lungo quel tempo, ma va bene così. Quindi noi ci aspettiamo serietà e coerenza, ma soprattutto decisioni. Se poi uno non è d'accordo, lo dica. È possibile che questo accada, ma a questo punto noi rivendichiamo la via elettorale. Quindi un ragionamento molto chiaro, credo, il nostro, non offensivo di nessuno, perché i temi che abbiamo evocato sono noti, arcinoti. Certo, se uno pensa, ti dico sì oggi, poi forse domani, e poi perdo tempo, faccio passare mesi, condanno in quel caso sì per il paese, per l'economia, per la reputazione dell'Italia, beh, in questo caso noi saremmo ovviamente abbastanza attenti ad evitare questo vecchio giochino. Se tutti sono in buona fede e la discussione è sulle cose, io credo che ci siano tutte le condizioni per andare avanti. Se così non sarà, in democrazia votare non mi sembra che sia una cosa da vedere come una disgrazia, sarebbe molto peggio se non si potesse votare, se fosse il palazzo a decidere al posto della gente. Ok, mi pare che il senatore Gasparri non nasconda la difficoltà di questa intesa, però naturalmente non chiude la porta. Allora, a Mazzatorta chiedo questo primo intervento un po', diciamo, più nella tradizione della Lega. Bossi in questi giorni ha fatto degli interventi dopo aver lasciato campo libero a capire come si prospettava per Berlusconi la soluzione della faccenda. Negli ultimi giorni è sembrato un pochino incalzare, dicendo in buona sostanza, in sintesi, due cose. Primo, qua si va a votare, è inutile che ci perdiamo in tante formule, e prima si va meglio è. Secondo, caro Silvio, stai attento perché la Lega diffida, anzi è ostile, non solo contraria, a ogni ipotesi di ruota di scorta terzopolista, cioè se pensi di poter imbarcare Casini per andare avanti o per fare addirittura un'alleanza, noi non ci stiamo. E sono due richiami in buona sostanza al nocciolo dell'alleanza storica tra la Lega e Berlusconi. Federalismo, se non si può avere in questa legislatura perché non ci sono più numeri, tanto vale andare a votare presto, e stai attento perché chi già ha separato la sua strada dalla nostra è un po' difficile immaginare che possa essere oggi più convinto di quando ci ha lasciato. Sulla base di queste due premesse poste con una certa energia da Bossi, chiedo a Mazzatorta: come si fa a svolgere il ruolo di richiamo a tempi brevi per scioglierla questa legislatura, se si è così ragionevolmente scettici su ciò che in realtà hanno appena detto Gaspare da una parte e appena detto della Vedova dall'altra, visto che calendario alla mano, qua la finanziaria si presenta a fine settembre, in aula non ci va prima di terza di ottobre perché prima passa in commissione, quindi prima di allora non ci sono voti, significa, non essendoci voti su atti che coinvolgano insomma il rapporto di fiducia, la coesione della maggioranza, significa che praticamente poi i tempi per andare a votare a dicembre, lo ricordo a tutti, la data ragionevole è quella del primo fine settimana di dicembre, significa 45 giorni prima per scioglimento e così via, andiamo quindi in buona sostanza all'ultima di ottobre, bisogna sciogliere a quel punto a metà ottobre, come vedete i tempi a me sembra che non ci siano affatto, a meno che non si parta entro pochissime settimane, prescindendo dalla finanziaria, dall'idea di ratificare una rottura. Quello che chiedo al senatore Mazzatorta: in che cosa sono sbagliati questi conti che ho fatto io? Pensate di dover affrettare i tempi perché è meglio la chiarezza, e non è affatto vero che non si può votare a dicembre, meglio tornare alla base? Vedo degli sms abbastanza incazzata, devo dire, del centrodestra contro gli uni o contro gli altri, ma molto incazzata di fronte al fatto che per l'ennesima volta con una maggioranza così non si attua il programma, oppure la rassegnazione, sia pure energica, del dire che comunque prima che poi arrivi la primavera o l'estate è impossibile pensare a un voto. Ci fa capire, Mazzatorta? Ma guardi, Umberto Bossi è stato molto chiaro, al dono della chiarezza. Bossi ha detto che non accetteremo una sorta di palude nella quale si possa bloccare l'attuazione del programma di governo. Questo governo, questa maggioranza ha un obiettivo di riforma radicale su tutti i punti che prima sono stati citati, dal tema della sicurezza, dell'immigrazione, della giustizia, dell'economia, del federalismo fiscale, portando ad attuazione quel processo importante di riforma radicale che è il federalismo fiscale. Ma non accettiamo però che su questi punti così importanti per noi si possa arrivare a un tirare a campare. Ecco perché alla fine bisogna a settembre decidere se c'è ancora una maggioranza coesa su questi punti, e allora si va avanti speditamente. Penso per esempio al tema della giustizia, adesso è nelle mani della Camera, il Senato ha già approvato la legge sulla ragionevole durata del processo, il tema delle intercettazioni l'abbiamo esaminato per oltre un anno al Senato e siamo arrivati ad un testo che sembrava condiviso anche dai Fignani e lo abbiamo approvato e rimesso alla Camera, adesso il tema della giustizia è nelle mani della Camera, in pochi giorni a settembre si vedrà in Commissione Giustizia della Camera se c'è davvero un accordo su questi temi, allora si va speditamente in aula ad approvare questi due provvedimenti, oppure se ci sarà da parte del gruppo dei Fignani una sorta di diritto di veto, una sorta di ostruzionismo, e a questo punto bisogna trarne le conclusioni. Questo vale anche per altri argomenti, il tema della sicurezza e dell'immigrazione, no? La Francia in questi giorni sta allontanando i Rom privi di reddito e vedremo se su questo tema i Fignani seguiranno la maggioranza e il governo su una richiesta dell'Unione Europea di fare altrettanto e con maggiore determinazione anche in Italia. Staremo a vedere, ma noi siamo più pessimisti degli altri perché abbiamo già visto che su questi temi non c'è una coesione forte all'interno della maggioranza e quindi temiamo che a settembre poi per forza di cose i nodi vengano al pettine. Quindi sciogliere subito i nodi a settembre per poter votare entro fine anno. Devo dire che a metà, dopo questo primo giro, il secondo dopo la pubblicità, io non straderrei su una cosa concreta, perché qui la ragionevolezza direbbe avete preso la maggioranza e andate avanti, ed è il coro diciamo di tutte le persone responsabili, di tutti gli editorialisti eccetera, però quando si rompe una cosa così radicalmente tra leader la ragionevolezza è una maniera poi per ottenere risultati politici, per ottenere logoramenti ulteriori, per... Io non contesto che la voglia di molti sia quella di dire votiamo una volta per tutte la pagina su Berlusconi, non lo contesto affatto, basta che sia chiaro che a quel punto l'appello alla ragionevolezza mira a quello invece che a un'agenda che può essere che non ci sia più, come sembra che non ci sia più quando una rottura diventa così radicale. Allora, in che cosa poi l'appello alle urne diventa così irresponsabile e plebiscitario? Eccoci tornati in studio sull'interrogativo a cui ci eravamo lasciati. Se la rottura è davvero radicale, l'appello alla ragionevolezza, a continuare, andare avanti, non è un appello che poi nasconde semplicemente altri intenti politici. Poi tenete presente che l'arrabbiatura davvero di molti elettori del centrodestra, comunque la pensino su Fini, siano favorevoli a Fini, siano contrari a Fini, è molto forte. Io lo rivedo dai messaggi e devo dire che non mi stupisce, perché è l'ennesimo riproposizione dell'impossibilità di adempiere a un contratto elettorale che a un leader che una parte del paese considera un problema in sé, invece di volta in volta, tutte le volte che lo buttano giù, la volta successiva riprende i voti per questo contratto in maniera da lasciare poi l'altra parte d'Italia senza parole, a interrogarsi sul come mai questo avvenga. Ma questa è la storia politica italiana da 16 anni a questa parte. Sentiamo qualche ascoltatore come la pensa, cominciando con Silvia da Bergamo. Prego Silvia, come la pensa? Buongiorno, ex Alleanza Nazionale, l'onorevole Gasparri è ancora in linea? Sì, certo. Bene, allora lui ha accennato a quella tremenda decisione nella quale ci siamo trovati tutti all'improvviso, presa senza alcuna, nessuna domanda, noi elettori, insomma noi di AN, poi abbiamo accettato questa cosa perché sono venuti a indorarci la pillola e va bene. Adesso vediamo che Fini ha fatto il giochino, il Fini lo distrugge. Io già poco mi identificavo nel PDL e come ex AN. Ma se andiamo a votare, chi voto? Penso Lega a questo punto, perché sono stata alla festa della Lega qui di un paese vicino a Bergamo. C'è stato anche Castelli. E gli ho detto, ma onorevole, ma ha visto quanti ex AN ci sono qui alla festa della Lega? Mi ha detto, sapesse quanti sono. Adesso non vorrei che Castelli si arrabbiasse se io dico questa cosa, però insomma gliel'ho chiesto e lui mi ha detto di sì, che è proprio vero. Quindi è uno sfascio totale, sfascio politico, sfascio di ideologie, sfascio morale. Io mi pare di capire che il più della responsabilità, se non sbaglio a capire quello che dice, lei lo attribuisce a Fini o no? Sì, decisamente sì. Quindi ha fatto e disfatto come un badoglio, una coesione ideologica molto antica. Poi all'interno di AN, per carità, c'era gente comunque che litigava, questo non è il punto, ma il punto è che abbiamo alla fine digerito questa decisione e va bene, vediamo finalmente l'Italia, smettiamo di chiamarlo paese, la nostra patria finalmente gestita da una maggioranza che forse riusciva a fare qualcosa di concreto per noi italiani, perché sembra che a noi italiani non gliene importi niente a nessuno. Faccio un discorso, sembra un discorso da bar, vabbè facciamolo, però voglio dire, questo è il discorso finale. Noi andiamo alle urne, siamo noi che mettiamo la X su un partito piuttosto che l'altro. Ci interessano le intercettazioni, ci interessa la giustizia, per carità, non è che non siano questioni importanti, ma io tutte le mattine vado a lavorare, tutte le mattine io devo sbarcare il lunario, come me, milioni di altri italiani, smettiamola, facciamo come i tedeschi, quelli sono pragmatici. Ecco, questo sono dei pragmatici. Silvia, mi sembra che fare come i tedeschi sia una cosa su cui credo che nel nord ci fosse qualcuno che tirasse sullo slogan, penso che lo farà la Lega probabilmente, però penso, ieri c'è stato per la prima volta, per esempio, su un grande quotidiano del nord ha affacciato il tema se non sia il caso di pensare a una nuova formazione politica nel nord e anche nazionale, che con un'ottica di centrodestra pensi a mercato e pensi a serietà e pensi proprio pensando che può esserci una crisi sia al nord che al sud del PDL in queste condizioni. Silvia ci aiuta a capire che una parte dell'elettorato del centrodestra, una parte forse un po' meno secondaria di quanto sembri, e veramente oggi si gratta la zucca e dice ma io chi diavolo voto? Nel nord c'è l'alternativa della Lega, vedremo. Luigi da Pisa come la pensa? Buongiorno. buongiorno, io la penso così, che praticamente questa situazione politica del centrodestra, che da 16 anni fa un cartello elettorale che poi non mantiene, nonostante i grandi numeri di vantaggio nel governare il paese, tipo per dire anche la Lega ha tradito il fatto che voleva abolire le province e poi invece ci ha rinunciato perché quando ci si mette il pane nella zuppa poi non ci si rinuncia più, quindi anche la Lega ha le sue colpe. E mi sembra che in questo ultimo anno Berlusconi continui a dire che non mette le mani nelle tasche degli italiani, ma ce l'ha messa profondamente. Quindi il governo di centrodestra, se cade, io non penso che poi vinca tanto facilmente come pensa ancora Berlusconi. E quindi lei scusi, dovrebbe dire, se capisco, alle urne. Se si va alle urne loro non hanno più questa certezza di vincere, perché se non sono riusciti a governare con questi numeri, quando vogliono governare? Perfetto. Perché Berlusconi, qualsiasi volta qualcuno del suo governo non è servile nei confronti delle sue decisioni, lo butta fuori dal partito, vuol dire che non è un partito. Va bene, è un'azienda. Perfetto, un altro punto di vista, è chiaro che questo è un punto di vista esterno ed estraneo al centrodestra, critico, ma sicuramente non ostile all'ipotesi di andare a votare. Sentiamo ancora Gino dalla provincia di Venezia. Prego Gino. Sì, pronto. Dunque, io quello che invece contesto, sarei d'accordo benissimo per andare alle elezioni, per carità, però... Ah, Gino, si sente un po' male, provi un secondo a parlare meglio al microfono del... Sì, pronto, mi sente meglio? Ecco, sì, dica. Ecco. Dicevo, io non sono contrario al fatto di andare al voto. Sì, va bene, però con la legge elettorale consente al capo del partito, qualunque partito sia, verde, bianco, giallo, rosso, di nero, scegliere gli eletti, di scegliere gli eletti. Di scegliere, non solo gli eletti, ma di poter mettere nella lista persone che non sono gradite all'elettorato stesso che voterebbe. E di scegliere gli eletti, appunto, certo, è il punto debolissimo di questa legge. Che non trovo assolutamente costituzionale, perché insomma limita in un certo modo quella che è la libertà di scelta. Non c'è dubbio, quello è l'aspetto veramente duro da buttare giù di questa legge elettorale. Lei dice che bisogna cambiarlo in ogni caso, no? Io sarei proprio per... Andiamo a votare, però prima... Grazie Gino. Grazie Gino, no, questo è un punto istituzionale. L'unica obiezione è che si comincia a mettere la mano su questo, che è uno schifo a mio giudizio personale, e poi il rischio è che si formi una maggioranza che poi ci porta al proporzionale, perché questo è nell'agenda di chi vuole fare il famoso governo istituzionale per cambiare la legge elettorale, questo è nell'agenda di chi, di un pugno di parlamentari, di senatori soprattutto, che dicono al Senato noi possiamo condizionare i numeri molto periclitanti al Senato verso una maggioranza che abbatte il bipolarismo al maggioritario, e qui diventa un problema, perché questa è una crisi di sistema addirittura. Bisogna tornare al proporzionale, ve lo chiedo, faremo un'altra puntata su questo. La mia risposta è netta, no, ma è la mia. Giuseppe da Bari, come la pensa Giuseppe? Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Volevo fare una semplice domanda piccola a tutti i presenti. Cadendo Berlusconi, c'è un altro che può sostituire tutto? Sento la risposta per radio. Ma lei dice in questa legislatura o alle elezioni per il centro? In qualsiasi legislatura, non è che noi abbiamo oggi uno pronto a sostituire Berlusconi. Perfetto, grazie Giuseppe. Sentiamo allora le risposte, ricominciamo da Benedetto Della Vedova, un po' su tutti questi temi. Ha sentito l'incacchiatura di molti elettori, ma ce l'ha ben presente. E nel caso invece di scioglimento e di rottura, a quel punto per la vostra componente, chi diventa il leader di un candidato a governare? Se non è più Berlusconi, ve la vedo. Guardi, telegraficamente, rispetto a quello che ha detto Silvia, io mi stupisco che non sia all'ennesima potenza questa ostilità nei confronti di Fini tra gli ex AN, perché sullo sfondo, poi torniamo alla politica, sullo sfondo è in corso un'aggressione mediatica con la mazza ferrata, peraltro da parte di un giornale del fratello del Presidente del Consiglio, nei confronti del Presidente della Camera, che non ha nulla a che vedere con le inchieste giornalistiche che a noi di stampo anglosassone piacciono, ma che ovviamente devono essere rivolte non contro l'avversario interno dell'editore, ma a 360 gradi, altrimenti perdono totalmente di credibilità. Qui Fini, la moglie, Urso, fra un po' diranno, faranno un titolo non a 9 colonne, ma a 2 colonne, Della Vedova non paga i contributi alla Colf, qui si spiega che essendo io uno che li paga magari sono stati in ritardo di 15 giorni e diranno ah, il moralizzatore. Quindi al fondo c'è questo, c'è la character assassination del presidente Fini, fatta con la mazza ferrata dai media di proprietà o di riferimento del Presidente del Consiglio, che ha un effetto che è quello. Lo stesso racconto del finismo fatto da Giuliano Ferrara, ugualmente intelligente, ugualmente amico di Berlusconi, ha sempre portato a dire Fini è una risorsa, questo Fini è una risorsa per il centrodestra e per Berlusconi. Ci ho detto, io insisto, io che sono vice capogruppo di Futura Libertà per l'Italia alla Camera, non ho mai votato contro il governo, non ho mai fatto nulla che ostacolasse nei fatti, anzi io ho cercato di spingere per avere più riforme degli ammortizzatori sociali, meno tasse, più liberalizzazioni, ho fatto la legge per avere la legge annuale sulle liberalizzazioni, ma il problema è Fini che voleva un partito diverso o è il fatto, ad esempio, e lo dico sentendomi la responsabilità, che il mio governo da 5 mesi in questo contesto economico non è riuscito a fare il ministro, non ha più un ministro per lo sviluppo economico, e non c'entriamo certo noi finiani se il governo della quinta, sesta, settima potenza industriale del mondo non ha un ministro. Io dico, a settembre la prima cosa che vogliamo fare è ridare all'Italia, Confindustria, al sindacato un ministro oppure no? Ma discutiamo di queste cose. Sul processo breve, io sono anche più esplicito di Gasparri, è ovvio che i processi devono essere brevi. Io, dico una cosa che penso a livello personale, che non impegna nessuno, sono sempre stato convinto che uno scudo giudiziario per Silvio Berlusconi, storicamente per Silvio Berlusconi, non mi scandalizza. Ma l'unica cosa, se dobbiamo farlo col processo breve, se noi avessimo messo in pista il lodo costituzionale era meglio, magari trovavamo anche in quell'area di responsabilità istituzionale che si è creata sul caso Caliendo, trovavamo anche alleati. Ma vogliamo raggiungere quell'obiettivo? Raggiungiamolo, ovviamente senza per questo creare detrimento al resto del funzionamento della giustizia, a quelli che attendono giustizia, eccetera. Non è vero che siamo in una palude. C'è stato nel centrodestra un confronto durissimo sulla forma del PDL e sulle prospettive del PDL, laico o clericale, liberale o corporativo, mettiamoci quello che vogliamo. Qualcuno ha trovato intollerabile questa competizione di idee e di personalità dentro il PDL e adesso cerca di trasformarla in un problema per il governo. Ma sui numeri, e io lo ribadisco essendo stato l'unico fin qui che ha fatto un intervento ufficiale a una Camera a nome di Futura Libertà per l'Italia, la maggioranza non è cambiata di una virgola. Poi se qualcuno vuole venire a settembre a provocare, metterci le dita negli occhi, chiederci abiure o di aver cambiato idea, vabbè, allora è perché vuole far saltare il tavolo. Va bene. Ma se invece vogliamo metterci lì e governare a partire dal ministro dello sviluppo economico, e io spero si trovi una persona con licenza di uccidere rispetto alle liberalizzazioni di cui il paese ha bisogno se vogliamo correre come la Germania, sulle tasse, sul federalismo come disegno nazionale, su questo non c'è nessun problema. I problemi restano sulla visione politica del centrodestra, ma se vogliamo governare e andare avanti, certo, se l'obiettivo è quello di andare al voto, non capisco perché la parola passa a Napolitano, potrà saltare tutto. Se l'obiettivo è quello di andare avanti, i numeri ci sono. Il resto è letteratura. Va bene, allora ribadisce, quindi non si fa trascinare sulle domande qual è il leader, se non è più Berlusconi eccetera eccetera, ribadisce rocciosamente andare avanti. Noi non abbiamo mai votato contro, una dialettica molto forte su che cos'è il centrodestra, questo è un altro paio di maniche rispetto alla maggioranza e al governo. Eccoci tornati in studio, la domanda un po' secca, oltre a tutte le considerazioni che ritenga di dover fare alla luce delle telefonate, dei nostri ascoltatori eccetera, che rivolgo al senatore Gasparri è molto rapidamente, se l'intenzione è quella davvero di arrivare a redazione, cioè di fare stato delle chiacchiere, delle buone intenzioni, di considerarle una recita, ma nella sostanza se si pensa che questo rapporto sia logorato e liso e si debba andare alle urne, bisognerà procedere molto rapidamente, e per procedere molto rapidamente c'è qualche incognita istituzionale, però la domanda che faccio al senatore Gasparri è di rispondere con una mano sulla coscienza al popolo incazzato del centrodestra, che più tempo passerà e con ogni probabilità più si arrabbierà, prendendo poi espressioni e indirizzi diversi di voto o di non voto. Come si fa a dare una risposta che contemporaneamente poi non offra a tutti gli altri la possibilità di additarvi come irresponsabili istituzionali, come scassatutto, come non osservanti della Costituzione e del Quirinale? Come si fa di fronte a questo bivio, senatore Gasparri? Ma guardi, intanto vorrei fare un'affermazione. Tutta questa discussione, anche questa di oggi, ci porta su percorsi del politichese, di quelli che portano un cittadino a spegnere la radio, mi auguro di no, e dire ma che palle questi politici, perché si parla di ritualità. A questo ci sta trascinando la posizione di Fini e di altri. Mentre avviene tutto questo, vorrei dire a questi elettori che noi, alla fine di luglio, mentre alcuni facevano i gruppi parlamentari e i giochini vari, abbiamo approvato in Parlamento il nuovo codice per la sicurezza stradale, che è una cosa molto importante, perché la sicurezza di chi viaggia, che è aumentata, è una cosa che riguarda la vita delle persone, non la vita in termini metaforici, la vita reale, ed è stato approvato un provvedimento di importanza storica, peraltro alla unanimità. Abbiamo approvato la delega al governo per il codice antimafia, per mettere in un unico testo le importanti, durissime, spesso rinnovate da noi, norme antimafia, carcere duro, sequestro dei beni, contrasto alla criminalità. Ogni giorno vengono arrestati 8 criminali, sono stati arrestati in questi ultimi 2 anni 26 dei 30 più pericolosi latitanti, abbiamo sequestrato miliardi e miliardi di euro di beni alle cosche. Alla fine di luglio abbiamo dato delega al governo per fare norme ancora migliori, più organiche e più incisive. L'economia. Si dice non c'è il ministro dello sviluppo economico, non lo nomineremo, ma noi abbiamo votato a luglio, l'ha votata anche della Vedo, una manovra economica importante, è stato il primo paese europeo a fare una manovra economica per mettere in ordine i conti, è stata apprezzata dagli organismi europei e internazionali, i provvedimenti di attuazione sul federalismo fiscale aprono la strada, a proposito di tasche dei cittadini, alla cedolare secca, quindi una minore tassazione di chi affitta case, maggiore trasparenza del sistema fiscale. Abbiamo ottenuto risultati fantasmagorici nella lotta all'evasione fiscale, miliardi e miliardi di euro recuperati da chi non pagava nulla per far pagare di meno tutti. Abbiamo fatto quindi delle cose importanti, dati sul PIL, alcuni indicatori economici indicano una situazione, certo sempre complessa, ma che va migliorando. Questa è la realtà, ma chi parla della realtà? Nessuno. Siamo qui a parlare chi farà il gruppo, chi farà il sottogruppo. Ecco perché noi abbiamo fatto un documento che indica delle priorità politiche sull'economia, sul sud, sul fisco, sul federalismo, sulla sicurezza, sulla giustizia, e quelli che fanno le microscissioni. Ha risposto quella elettrice di destra che dice ma io voto semmai la Lega fa una normale e giusta azione di propaganda dei suoi contenuti, se ha preso più voti l'avrà presi anche in altri ambiti del centrodestra. E che allora dico a questi elettori che nel PDL c'è chi come me e molti altri sul reato di immigrazione clandestina, sul contrasto alla criminalità, su una politica di fermezza di fronte agli sbarchi, a quant'altro, ha sempre avuto posizioni molto chiare e decise sulla difesa della famiglia, sulla difesa del diritto alla vita. Abbiamo fatto una legge sul testamento biologico importante al Senato. Insomma, c'è da un lato coerenza, incisività, chiarezza, fattività. Noi vogliamo andare avanti su questa strada. Se sarà possibile lo faremo. Se qualcuno invece, per ragioni imperscrutabili di tipo personale, io guardi, non mi piacciono le aggressioni mediatiche e non ho partecipato a questo coro. Voglio dire che come ex militante di Alleanza Nazionale vorrei sapere come è stato gestito il patrimonio di una comunità. Questo è un problema serio ed è politico. Quando uno si fa paladino della legalità deve rispondere di queste cose. Io attendo ancora delle risposte da militante e non sta nessuno di noi alimentando questa polemica. Ma voglio dire, ecco, su questo scherziamo poco, perché chi viene da una certa storia, da una storia di un partito onorato, vuole sapere quelle risorse come sono state utilizzate. Per quanto riguarda altre questioni tipo la giustizia, dalla Vedova che aderì a Forza Italia ed arriva al PDL attraverso la via di Forza Italia, che è sicuramente cedente del garantismo tradizionalmente molto più avanzato di me, credo che saprà che sia necessario fare una legge per tempi certi alla giustizia, e che respingere l'aggressione politico-giudiziaria a Berlusconi è un fatto della politica di questa stagione non breve italiana. C'è o non c'è un'aggressione politico-giudiziaria a Berlusconi? Secondo me sì, e quindi discutere di questo tema è legittimo farlo, e le norme che abbiamo approvato anche al Senato hanno una portata di generalità però posso anche garantire anche al cittadino Berlusconi che in un tempo ragionevole si possa dare un giudizio e non tenerlo tutta la vita sotto processi spesso pretestuosi che servono solo alla sinistra, anche quella togata, a ottenere per via giudiziaria un risultato che per via democratica ed elettorale difficilmente riescono ad ottenere, di battere Berlusconi al centrodestra. Ma noi vogliamo parlare di queste cose e a fine luglio, mentre qualcuno si divertiva con alcuni riti di vecchia politica, sicurezza stradale, antimafia, manovra economica, la riforma dell'università approvata al Senato in prima lettura, abbiamo fatto cose concrete e vogliamo ricominciare a fare cose concrete. Se sarà possibile andremo avanti, ma baloccarci in questo giochino, in questo tipo di rito come quello anche di oggi, è un test, è inimmaginabile e fa incazzare non solo gli elettori ma tutti, anche i politici seri che vogliono fare cose serie per le quali la gente ci ha votato e ha ragione di chiederci conto di questo. E quindi chi fa bizantinismi e giochini per ambizioni e interessi di natura personale, beh, se ne assuma la responsabilità. Poi se si dovesse andare al voto, gli italiani sceglieranno, se avremo credibilità e forza vinceremo e governeremo, se democraticamente faranno altre scelte la democrazia e vedremo. Certo. Allora io devo dire che anche il senatore Gasparri, lo rassicuro perché poi c'è anche il conduttore che sta molto attentamente sorvegliando la velocità del giro sotto la sua cintura di alcune cose, perché effettivamente sembra di tornare indietro a alcuni decenni fa, insomma, fare trasmissioni come questa, però siccome ti dicono che la devi fare perché sennò poi non dai conto del dibattito che c'è nel centrodestra, sono prestato, ma deve sapere che come girano. Allora, senatore Mazzatorta, in conclusione, non è che per caso siete voi che poi alla fine dovrete, anche per coerenza a una forma di comunicazione diciamo un po' più fuori dai denti come quella della Lega, non è che sarete voi a staccare la spina quando verrà il momento, magari d'accordo anche con Berlusconi, che invece dovrà essere un pochino più, diciamo, all'altezza di un linguaggio istituzionale, pur essendo lui sempre antipolitico ed essendo quello ciò che divide innanzitutto di Berlusconi, ma sarete voi a staccare la spina? Che pensa? Noi siamo pragmatici, anche perché molti di noi sono anche amministratori locali. Io sono sindaco di un comune della provincia di Brescia e mi sembra a volte di vivere su mondi paralleli, un mondo reale, quello del mio comune, dove ogni giorno vado alle elezioni perché ogni giorno ho il confronto con i problemi dei cittadini e li devo risolvere, e un mondo virtuale che è questo del Parlamento, dove alla fine si parla ma non si realizzano poi obiettivi concreti. Ci sono tre temi sui quali purtroppo la maggioranza si è divisa: il federalismo fiscale, bisogna chiarire finalmente il processo, i tempi del processo di attuazione del federalismo fiscale, il tema della giustizia, in particolar modo intercettazioni e la legge sulla ragionevole durata del processo, e il tema dell'immigrazione, su cui non abbiamo parlato, ma su cui i Fignani hanno delle posizioni che non sono le posizioni della maggioranza e del governo, dal tema della cittadinanza breve al tema anche del respingimento dei clandestini, al tema del reato di immigrazione clandestina, su cui alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione di compromesso che non era la soluzione originaria che noi avremmo voluto. Ecco, su questi temi a settembre ci misuriamo, ma non perderemo un giorno di più. Se su questi tre temi non si arriva a una precisa definizione dei tempi, dei modi, a questo punto staccheremo noi la spina, cercheremo di Bene. Far capire a tutti che bisogna chiudere. Grazie, grazie al senatore Mazzatorta, grazie a Gasparri, grazie al nome della Vedova. La mia opinione è che chi è in ascolto si deve aspettare da parte di questa trasmissione del sottoscritto un maglio. Io penso che lo facciamo con la Germania, oppure davvero ci giochiamo nei prossimi mesi il treno della produttività e del prodotto per i prossimi anni. Già abbiamo anni di crescita stagnante alle nostre spalle, e adesso è il momento di far decollare alcuni strumenti per il bene di quelle parti di imprese trainanti dell'export manifatturiero. È adesso che bisogna fare una 110, 1000 Pomigliano. È adesso che bisogna dire no a tutti quelli che dicono no a Pomigliano come altrove. Non farlo e farci le seghe su chi deve essere il prossimo leader del centrodestra è semplicemente mettersi in ginocchio e dire tagliamoci la testa tutti insieme. Credo che un politico serio faccia, debba vedere questa realtà, altrimenti vuol dire che non mette limiti alla propria ambizione e vuol dire che avremo finalmente un sistema per dare una risposta all'enorme ambizione ipertrofica di Berlusconi, quella di moltiplicarla e renderla ancora più apertrofica per altri leader ancora. Questa è la mia personalissima opinione.